Pronto? Pronto, sì, eccoti. A tutti. Ok, ti trovi chiaramente in piazza di Porta Pia, immagino, a conclusione di questa manifestazione. Ci stavo un po' così, stavo un po' chiedendo a chi sta in piazza che cosa, come continuerà, insomma, se continuerà questa giornata, e ci sembra di sì. Sì, dunque sì, sto all'altezza, diciamo, del monumento ai Bersaglieri qui a Porta Pia. All'incrocio tra via Nomentana e via del Policlinico sono state aperte numerose tende che stazionano diciamo lungo la quella che è la corsia preferenziale degli autobus, proprio a ridosso del palazzo ministeriale dei lavori pubblici, delle infrastrutture. Quindi in un certo senso, diciamo, quello che era stato prefissato come sbocco conclusivo del corteo è stato effettivamente raggiunto, va anche, diciamo, tenuto conto del fatto che parte delle persone di questo corteo, ribadiamolo, numerosissimo, molto partecipato, sta man mano anche defluendo dalla piazza, anche questo è un dato comunque di cui tener conto, nel senso che effettivamente, insomma, la parola d'ordine dell'assedio è stata decisamente rispettata lungo tutto il percorso del corteo. Questo qui, diciamo, invece al Ministero delle Infrastrutture, a mio avviso, sta riuscendo, ma sta riuscendo in un certo senso anche parzialmente, insomma, perché appunto molta gente, anche forse preda un po' di stanchezza, sta abbandonando la piazza, ma stiamo parlando comunque di numeri, quelli rimasti in piazza, comunque molto, ma molto significativi, nel senso che qui la piazza di Porta Pia è ancora invasa di gente. Quindi adesso sta per iniziare un confronto pubblico, una discussione a microfoni aperti, alla quale immagino interverranno soprattutto le situazioni che hanno avuto un ruolo significativo nella costruzione di questa giornata e della giornata di ieri. C'è quindi questo tentativo di misurarsi con un confronto pubblico di piazza. Al microfono si stanno per avvicendare gli interventi dei compagni e delle compagne. E credo che solo dentro questo confronto si scioglierà la questione se rimanere o meno anche per le ore successive. Per il momento comunque c'è un'indicazione opposta, cioè si sta dicendo di rimanere comunque in piazza, si sta appunto aspettando che inizi questo dibattito, che in parte è già iniziato, ma adesso c'era un momento un po' di vuoto e adesso sono ripresi, diciamo, gli interventi dal furgone principale. C'è una carica improvvisa, gente che corre un po' da tutte le parti. Da che parte? Ma allora la gente va verso via Ancona, cioè, ma è stato forse solo un momento di parapiglia, perché guarda, improvvisamente c'è stato questa fuga abbastanza vistosa, ma è stato soltanto un momento, solo che adesso credo che gli animi si stiano un po' surriscaldando, visto che molta gente dopo un primo momento di disorientamento si sta riaffacciando per vedere un po' che tipo di situazione si sta venendo a creare. Ecco, a questo proposito, noi anche prima, insomma, cercavamo di sollecitare compagni e compagne, insomma, abbiamo chiamato anche un compagno del coordinamento perché è un momento, non voglio dire delicato, ma insomma, essendo conclusivo di una manifestazione e in qualche modo di apertura di una possibile conclusione politica anche con valutazioni eccetera, è un momento cruciale in cui lo stazionamento di migliaia di compagni e compagne lì di fronte d'altra parte a uno schieramento di forze di polizia che sta a protezione dei ministeri può creare momenti come questo, no, di nervosismo. Quindi sarebbe importantissimo che diciamo, lo sbocco preannunciato, perlomeno a livello di discussione, di presenza, di iniziative, di coinvolgimento della piazza, ci sia effettivamente, insomma, ecco, questo ci sembrava di poter dire. Ma sì, sicuramente questa è la prima valutazione che a caldo, diciamo, mi sento di condividere, nel senso che bisogna dire che c'è stata una grande prova di come dire, gestione della piazza oggi, e questo credo che vada considerato come un successo, perché lo avete sicuramente commentato nel corso di tutta la giornata, il livello di così, il tentativo da parte dei media comunque di cercare in ogni modo di, sì, sì, sì, di provare a far fallire la manifestazione è stato clamoroso, anche se ci sono anche precedenti in passato, ma insomma anche questa volta le cose sono andate in questo modo, e devo dire che in un modo o nell'altro c'è stata anche una grande prova, come dire, anche di maturità, sì, modo, certo, sì. Assolutamente. Dopodiché, ecco, questo forse è proprio il passaggio più problematico, cioè è che mi auguro che possa anche diventare oggetto di un dibattito, certo, anche magari a partire dalla giornata di domani, e cioè il fatto che l'obiettivo conclusivo, quello cioè di restare in piazza, sicuramente ha convinto larga parte del sportivo, ma evidentemente forse non tutte le componenti, perché un po', come dicevo prima, molti compagni hanno iniziato a defluire, e c'è poi anche un po' di incertezza nel capire se effettivamente fermarsi, aspettare, toccare, vedere se il momento di dibattito pubblico può essere realmente, insomma, un momento di confronto largo e positivo in grado di coinvolgere, certo, tutte le situazioni più presenti. Senti, un'altra cosa. Un momento così. Sì. Sì, un'altra, perché questo sì, è chiaro quello che dici, è proprio, insomma, quello che anche noi da qui individuiamo come momento critico, in qualche modo critico positivamente, ma insomma passando a una brevissima valutazione del corteo, dell'iniziativa, ci sembra che questo sia stato decisamente caratterizzato dal movimento di lotta per la casa, in genere dell'abitare, insomma, di questo problema delle abitazioni, e dai migranti, direi l'altra grossa componente, presenza significativa sia questa, non so che, tu che valutazioni dai. Ma assolutamente, diciamo che è stato quello dei movimenti per il diritto all'abitare non solo lo spezzone più nutrito, peraltro sappiamo, insomma, che ormai su questo terreno sono diverse le situazioni che operano quotidianamente, e non a caso il movimento delle occupazioni di case, di edifici dismessi o abbandonati o in disuso o pronti a essere immessi dentro i circuiti della speculazione sono cresciute in livello esponenziale nell'ultimo anno, possiamo dire. È evidente che questo tipo di realtà molto forte che caratterizza il panorama romano, ma anche nazionale, direi, forte, ma non solo, sì, ma non solo, anche nazionale, per l'appunto, perché c'erano diverse sezioni, sì, infatti, che avevano riferimento a altre realtà certo, italiane, e questo è stato molto molto visibile in piazza, e devo dire che poi la componente, ad esempio, dei rifugiati eritrei, che sono coloro i quali che sono protagonisti delle ultime occupazioni, quelle della settimana scorsa, davvero hanno espresso un livello di determinazione, di combattività, di compattezza molto ma molto forte, e credo che questo non possa sfuggire neanche ai media mainstream. Esatto. È chiaro che ci sono anche altre componenti molto molto importanti, ecco, interrompo un attimo questo momento di valutazione, perché di nuovo c'è un'altra gara. Sì, ma sinceramente adesso io tento di avvicinarmi un po'. Ma io credo perché che sia io un po'. Io non credo si possa parlare di vere e proprie cariche, no, perché c'è una sorta di ondeggiamento, ma. Sì, è quello che dicevo prima. Insomma, lo stazionamento di migliaia di persone abbastanza complicato di fronte alle forze di polizia, prima o poi genera, insomma, diciamo, episodi di questo tipo. Insomma, è da mettere sì, in conto. Sì. Guarda, noi è quello che se ti può essere utile pure per. No, dico, se ti può essere utile pure per valutare, diciamo, da alcuni siti che stanno riproponendo le immagini della piazza, si vedono appunto i cordoni di forza della polizia schierati a difesa semplicemente le loro camionette praticamente, e chiaramente ogni tanto allontanano perché si creano delle masse di gente di fronte e non fanno altro che rimuoversi per allontanarle, quindi questo crea questo ondeggiamento di cui tu parlavi praticamente. Sì, è esattamente la situazione che hai descritto, è esattamente quella, diciamo, che si sta verificando qui in piazza. C'è un invito, forse lo sentirete, sì, l'abbiamo sentito, dal Burdone, di mantenere la calma, di non fare lancio di oggetti, ma insomma evidentemente c'è anche un certo nervosismo da parte delle forze di polizia, che ricordiamolo, nelle ultime 48 ore ce l'hanno messa tutta. Questo è un dato che sicuramente va tenuto in considerazione per, diciamo, provocare continue tensioni nel corteo, ma anche nei giorni scorsi. Adesso bisognerà capire, insomma, se effettivamente ci sono le condizioni, ci auguriamo tutti di sì ovviamente, per far svolgere questo momento di confronto pubblico. E forse non lo so, mi azzardo a dire che forse in un modo o nell'altro c'è il tentativo anche di far sospendere questo tipo di confronto, non lo so, ma la situazione un po' critica a cui stiamo assistendo dice anche un po' questo. Volevo aggiornarvi anche se non è proprio, diciamo, un aggiornamento purtroppo dettagliatissimo, ma insomma, siccome ci sono stati dei fermi nel corso del corteo, nei momenti ci sono state delle cariche di riferimento vicino al Ministero dell'Economia soprattutto, sembra che questi fermi, alcuni di questi fermi siano stati già, diciamo, convalidati, sono stati già rilasciati. Ah, no. Si è fatto riferimento soprattutto a dei compagni di Campani che dovrebbero essere stati rilasciati, ma si sta ancora cercando di verificare quanti ancora sono stati fermati, e capire un po' le condizioni di questi compagni, dove si trovano e se dobbiamo temere che vengano trattenuti nelle prossime ore. Comunque c'erano, diciamo, noi almeno qui in radio abbiamo avuto informazioni di due persone fermate che poi adesso nelle ultime ore almeno alcuni anche siti tipo InfoAut eccetera eccetera parlano di 11 manifestanti, però insomma in realtà non, sì, parla di una decina di manifestanti fermati. Questo è grosso modo il numero che è aggiunto anche al sottoscritto. Adesso cercheremo di capire meglio, insomma, che situazione guarda, ci stanno proprio in questo momento aggiornando che i confermati in questo momento sono 6 fermati. Ecco. 2 di Genova, 2 di Napoli e 2 di Urbino. Questo ci viene detto, sono quelli che sappiamo che già, insomma, sono in contatto con gli avvocati, quanto sembra. Sì. Perfetto, benissimo, benissimo. Va bene, compagni, io rimango ancora un po' qui in piazza, va ovviamente bene, a disposizione per cercare di capire un po' come si evolve questa situazione. Va benissimo, dai, magari ci risentiamo per fra un po'. Per il momento, diciamolo, si è di nuovo calmata, di nuovo, sì, sì, diciamo, tutto ritornato nella normalità. Va bene, grazie mille. Grazie. A dopo. A dopo, ciao. Ciao.